Parlando di frequenze, visto che ultimamente ci siamo informati anche sul costo di una frequenza in etere, visto che in Italia non ci sono tante frequenze libere, costa 800.000 euro più o meno. Quindi potremmo andare a farci le vacanze, anzi stabilirci direttamente in qualche isola così sperduta. Questa è più o meno la situazione, insomma. Io volevo chiedere una cosa, stimolare proprio un dibattito sul come funziona l'assemblea della radio, visto che si è detto non è la radio di uno specifico spazio, di un determinato centro sociale, ma piuttosto la radio della città. Come funziona, visto che veniamo da diversi contesti in cui poi le tematiche, le dinamiche e gli scazzi, consentitemi di dirlo, sono molto simili, come vengono affrontati? Qual è il metodo da usare? Come funziona proprio l'assemblea? Io volevo dire una cosa, noi sempre abbiamo fatto la stessa cosa per autogestionarsi, no? Infatti la facciamo adesso, tre concerti all'anno, forte, in centro sociale occupata, no, sempre uguale, no? Però adesso la verità è che stiamo cercando un altro tipo di fare l'autogestione, facendo laboratori con associazioni di quartiere, laboratori sul radio, come fare radio per bambini, per gente tossicodipendente, sempre lavorando con associazioni di base, no istituzione, che dopo loro possono coinvolgere, no? No, sempre per la volontà o partecipare, come partecipare con noi, no? Non solo di soldi, sino facendo questa cosa o l'altra, però dal nostro punto di vista siamo già un po' stanco di questa dinamica di sempre fare concerto e vogliamo, cioè stiamo cercando un altro tipo di autogestione perché è più pesante fare il concerto, tutta questa cosa, no? Sì, è una cosa. E io penso che questo è importante perché noi abbiamo trovato che facciamo il concerto e troviamo a tantissima gente che si ubriaca e tutto, fa un casino, però la radio se la frega un cazzo, no? Come si dice qua, no? E questa cosa Sei no, non stato piace. chiarissimo. Questa cosa no, non ci piace, no, non è possibile. Dopo andiamo a un'associazione di quartiere che ci sono gente affine e questa gente gli piace la radio, partecipa, dopo si fa manca, mette un po' di soldi, dopo arriva la radio, fa un programma, non so, cerchiamo già un'altra cosa per avanzare un po', no? E niente, l'autogestione, È difficile, è difficile, è difficile. l'assemblea. L'assemblea, blackout, ovviamente si basa su un'assemblea che viene fatta e pubblica. Pubblica nel senso che non è che la prima persona che passa sul marciapiede può arrivare lì e dire: ma io propongo questo, nel senso che c'è una minima di controllo, ma uso questa brutta parola, però nel senso che se no altrimenti non si capirebbe niente. Già è difficile stare dietro a tante cose, soprattutto in quest'ultimo periodo. A Blackout ci sono più o meno 90 persone che trasmettono. Alle redazioni del lunedì sera. Ce ne sono, il massimo che riusciamo ad arrivare sono 30-35 persone. Pur essendo in questo momento sotto sfratto, non è cambiato niente. Lascio perdere la parte, quella mia polemica sulla gente che viene, fa la sua trasmissione di 2 ore, 1 ora, e poi chi l'ha vista, insomma. L'importante in una radio come Blackout è non sentirsi parte di nessun collettivo, di non sentirsi parte di nessun collettivo, non sentirsi parte di nessuna casa occupata, di non sentirsi parte di nessun sindacato, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno è Blackout individualmente e ognuno nell'assemblea di discussione rappresenta in quel momento la radio. Rappresenta la sua trasmissione, rappresenta quello che vuole fare per portare avanti questo progetto. Tant'è che poi appunto è difficile poi riuscire ad amalgamare una, così un panorama di realtà simili ma diverse nello stesso tempo. Però la si fa molto perché comunque all'interno di Blackout esistono molti, tra virgolette, cani sciolti che quindi hanno le loro idee ma che le accantonano perché comunque sentono che la radio è uno strumento troppo importante per metterci del loro, cioè per mettere alla loro testa le loro idee, quindi io non sto con lui perché c'è la maglia blu, ma anzi si tenta sempre di abbassare queste barriere, tentando di collaborare e tentando di portare avanti appunto questo progetto che sinceramente per me se chiudesse sarebbe un fallimento di tutti, cioè un fallimento di tutti noi per primi, non solo della città, perché ovviamente se uno vuole imbarcarsi in questo progetto lo fa prima di tutto per se stesso, perché vuole portare la propria conoscenza, la propria esperienza in una cosa importante. E quindi è difficile. Sono molto lunghe queste redazioni, molte volte se non c'è tanto da parlare, sì, però come avete capito da una gestione di, essendo una radio libera che non prende sovvenzioni dalle istituzioni, da enti privati, eccetera, eccetera, eccetera, è difficile comunque, cioè è difficile riuscire sempre ad avere una linea a finire le redazioni in modo proprio tranquillo e poi soprattutto ultimamente è diventato abbastanza pesante, ma non perché comunque ci sono tante cose a cui pensare e tutti si devono mettere in gioco, devono accantonare un attimo la loro, tra virgolette, individualità, anche se l'individualità per me è una cosa fondamentale, insomma. Quindi è una collaborazione di tutte le persone che si sentono protagoniste del progetto, anche se poi ma la maggior parte delle persone che porta avanti il progetto magari non trasmette neanche. Cioè, non succede che le persone, che ne so, che si occupano dello streaming o quelle che si occupano della cosa burocratica di andare a pagare la bolletta, magari sono quelli che si fanno tutte le redazioni, ma che magari non mettono neanche un disco in radio. E quindi diciamo che si vive questo controsenso tra la gente che fa la radio che però non partecipa sempre, e la gente invece che la vede più non come lo sfogo di 2 ore di trasmissione, ma la vede più come un progetto serio a cui portare la propria esperienza. Allora, parto dalla coda dicendo che questa è una cosa che si verifica anche in Radio Onda Rossa, ma non per dire pure noi, bensì per far capire proprio quanto e quanti sono i tipi di contributo che si possono portare avanti una radio. E anche noi abbiamo una riunione di redazione dove anche la proporzionalità più o meno è la stessa, perché alla fine a trasmettere siamo in una sessantina di persone, però poi a partecipare, lo dico con dispiacere ma con sincerità, siamo sì o no 15 o 20 alla riunione di redazione. Una riunione nella quale cerchiamo in realtà di sbrigare il più rapidamente possibile quelli che sono gli aspetti tecnico-burocratico-gestionali che comunque devi andare ad affrontare. E poi una parte che invece è più polposa, che è quella poi nella quale si discute di quelli che saranno gli spazi redazionali, cioè le tematiche che andremo ad affrontare insieme, ognuno che abbiamo dei turni fissi noi di copertura redazionale, che includono sia il GR sia gli approfondimenti, piuttosto che delle singole corrispondenze che vengono fatte comunque fuori dal GR, chiamando le persone. L'ideale è quando vengono i collettivi da noi e dicono collettivi, gruppi, singoli, dicono: oh, voglio parlare di questa cosa bella, vieni in radio e ne parliamo insieme. In buona parte le persone che fanno parte della radio in effetti non appartengono ai dei collettivi, ci sono persone che invece partecipano a dei collettivi, però Se da una parte vengono ovviamente dicendo oh guardate che noi la settimana prossima andiamo a occupare piuttosto che noi siamo gli studenti e la settimana prossima stiamo in mobilitazione per questo motivo e meno male che ci sono loro che portano un contributo vivo, l'altro movimento è quello che comunque anche noi sentendoci ed essendo parte di quello che succede poi in giro ci andiamo, non è che ci andiamo col taccuino, a volte è pure difficile perché io faccio un intervento e dicono hai Zanza della radio, no io sono Zanza che sta facendo un intervento, non sono Zanza della radio, poi quando mi senti in radio è un'altra cosa, quindi anche quello diventa un pochino difficile e, però è naturale ed è secondo me anche una grossa ricchezza il fatto che ci sia tutta questa eterogeneità all'interno di una radio, perché? Perché alla fine una linea non viene e non deve venire fuori, secondo me. E questo, diciamo, ovviamente poi a volte ci sono perfino, a volte sono semplici diversità che poi si sentono, si ascoltano, anche se uno sta delle ore a sentire la radio, sente quali sono le differenze fra una trasmissione e l'altra. Qualche volta riusciamo poi ad arrivare a dei momenti interessanti perché diciamo benissimo, c'è mezza Roma, ma piuttosto anche un dibattito che sia a livello nazionale, perché se abbiamo un difetto è che forse a volte dimentichiamo che il mondo non finisce a Roma, qualche volta lo superiamo questo difetto e ci interessiamo anche di altre cose e forse ce l'accogliamo un po' perché essendo la radio più vecchia si ascolta anche in streaming eccetera eccetera, spesso anche quando c'è stato lo sgombero dello Z io sono stata contentissima aprendo e chiudendo parentesi del vedere che per fare gli schittini per lo sgombero dello Z c'erano le voci nostre, cioè quelle di Radio Onda Rossa, per cui è stata bella questa cosa. Però tornando a Bomba, noi abbiamo i microfoni aperti, a volte ok c'è mezza Roma che sta parlando di questa cosa, non arrivano a un punto di sintesi, benissimo, noi sabato facciamo i microfoni aperti, parliamo di questa cosa, invitiamo diverse persone che esprimono posizioni diverse e invitiamo anche la gente a telefonare, cioè a volte si sentono delle cose spettacolari proprio, però io credo che sia anche giusto fare così. A volte se tu fai informazione come appunto radio che non è espressione di un singolo, che non è un organo di partito o quel che sia, ti tocca anche relazionarti magari con quel collettivo, quella persona di quel centro sociale che a te ti sta veramente qua e vorresti veramente non parlarci, ma ti tocca farlo. Allora lì devi avere l'intelligenza di usare degli strumenti critici e stare lì in diretta, senza finire a fare i litigi in diretta, però diciamo con un certo savoir-faire e stimolare il dibattito. Poi a volte ti togli le soddisfazioni perché inviti quello lì che ha sempre fatto l'intellettualoide che strizza l'occhio alle istituzioni e ha fatto l'errore di portarsi ospite la tipa francese che invece prende e scatta nell'apologia dei casseurs, per cui insomma anche cosa che a me è realmente successa. Però secondo me la funzione di una radio è anche questa, anche perché secondo me l'espressione delle diversità, che non deve essere critica, lo ripeto, poi tu che stai a un microfono la dici la tua posizione come persona, proprio come persona che pensa una determinata cosa, è anche un atto di rispetto verso chi ascolta, perché tu non hai una verità da imboccare a chi sta lì a sentirti che non sa che cosa pensare, ma stai lanciando degli stimoli e tu sai le persone che l'intelligenza che hanno, ognuno e ognuna trarrà le proprie conseguenze, le proprie conclusioni. Dipende, noi abbiamo avuto di tutto tipo di esperienze sull'assemblea. Dall'epoca in cui c'eravamo 4-5 persone a quelli momenti che eravamo una trentina, una sessantina, che ne so, è una città media, perciò che anche dipende dal momento, di quantità di cose che succedono intorno, magari quegli anni 2000, 2001, 2002 eravamo tutti lì anche con più energie, prima c'è stata una crescita, adesso c'è una discesa. E diventa, alla fine abbiamo sviluppato diversi modi di partecipare nell'assemblea, ogni programma deve partecipare obbligatoriamente perché sennò lasciano tutto il lavoro a quelle persone che hanno più interesse e alla fine quelle persone si stancano e dicono basta. Dopodiché secondo me abbiamo avuto delle cose buone e delle cose male, che siamo andati indietro. Ad esempio, è obbligatorio assistere almeno un 90% delle assemblee, che sono una volta al mese, perché noi non abbiamo lo spazio di redazione, no, non, adesso non ci sta. ogni programma fa il suo programma e basta. Però per fare un lavoro obbligatorio sulla radio, ogni programma deve fare anche un'ora prima di arrivare a, fare la sua loro trasmissione, deve fare un'ora di partecipazione anche alla radio. Magari aprire la porta, magari pulire, sistemare una stanza. Ci sono tanti lavori facili, semplici, il bagno, chi lo pulisce il bagno? Di stupidaggine, però che si devono fare ogni giorno. Che se no ti fa schifo chiamare a qualcuno per come partecipare in radio, perché no, ti avvergogni del tuo posto. E quello è basico, cominciando dal basso, poi andare avanti. E alla fine, no, è ovvio, però da noi ha voluto una decina d'anni prima di capire quello. Radio Topo, dopo 10 anni, ha dovuto inventare quel discorso di è obbligatorio arrivare un'ora prima, e tu devi essere lì un'ora prima, e basta, è quella la norma. E devi avere il tempo, mi dispiace, e se non ce l'hai, qualche motivo ce ne avrà, e si trova un'altra soluzione, ma si deve lavorare, però sono cose basiche. Dopodiché il lavoro collettivo non è... c'è un minimo basico tecnico da fare, però quel minimo psicotecnico può essere di tutto, dall'economia alla tecnica fisica all'internet, e cerchi lì la soluzione a quelle persone che sanno scrivere, che sanno parlare, o quelli che hanno una bella selezione musicale, o quelli che sono bravi a portare avanti il mixer, che ne so. Perciò secondo me è bello alla fine il lavoro, perché non è, purtroppo non è facile. Lì c'è anche l'incrocio dei treni senza controllo della ferrovia. Ognuno arriva dalla sua idea politica, boom! È a volte divertente vedere come si ammazzano tra di loro. E arriviamo noi indietro, va bene, allora... facciamo qualcosa, però. La prima volta che parlo un po'. Sì, yo anche, un po' nervoso. Yo creo que el punto es casi igual, ¿no? Abastanza, pero noi abbiamo fatto, o sea, abbiamo trovato que la gente no sappiamo lavorare en asamblea. 30 persone senza sapere lavorare en asamblea è difficile. Perché si deve rispettare il turno di parola, una persona deve scrivere tutto, non possiamo parlare 4 e 20 ascoltare, ci sono, dobbiamo di... hai un bisogno di una dinamica per lavorare, che questo essere un'assemblea e non un controllo di 4 persone sopra l'altra gente. E per questa cosa stiamo lavorando in... E ogni tempo facciamo una giornata per imparare tutti di come si può lavorare in assemblea, per creare dinamica contro... Perché io penso che l'assemblea si può creare un potere tra una gente e tra un'altra. E per questa cosa bisogna una dinamica per lavorare. Questo adesso lo stiamo facendo, che è una cosa un po' nuova. L'altra cosa, pues, quasi uguale, ¿no? En un punto, 4 persone arrivavamo all'assemblea e 30 no mai andavano all'assemblea. E questa cosa ci ha bruciato con il tempo, e adesso facciamo la stessa cosa. Tutti i programmi devi di partecipare all'assemblea, come minimo. Il soldi non importa, però partecipare all'assemblea e partecipare in una commissione tecnica, una commissione pulita, una commissione in qualcuna commissione, devi di partecipare, perché se no non è possibile, ci abbrucciamo. Però io penso che questa cosa di come lavorare in assemblea, di come imparare a partecipare in un'assemblea è importante, perché la gente non è che nasciamo sapendo già come fare questa cosa, penso io. Io innanzitutto volevo ricordare a tutti che chiunque volesse interagire, fare delle domande, il microfono è assolutamente aperto, quindi voleva essere anche un dibattito questo. Poi, volendo andare avanti, un punto importante era, per chi si avvicinava alla radio, come veniva inserito nel contesto radio, i metodi usati per avvicinare la gente, aggregare chiunque voglia fare una trasmissione, non è che arriva, bella e trasmette. Come funziona in quel caso? Beh, innanzitutto chi vuole trasmettere viene, di solito capita informalmente, ah però figo vorrei venire anche a trasmettere, così va bella, vieni in assemblea. E quindi partecipa all'assemblea perché ovviamente è il luogo teoricamente aperto, diciamo, poi non capita spesso che vengono persone a parlare, però sì, noi lo teniamo aperto. Vieni in assemblea, un po' raccontiamo anche quello che stiamo raccontando questa sera. E poi fondamentalmente sia a Radio Blackout che da noi a Radio Onda Rossa c'è il cosiddetto affiancamento, ovvero una persona si mette d'accordo in base alle proprie esigenze, anche alle proprie capacità. Certo che se già ha delle competenze tecniche è una persona avvantaggiata, altrimenti comunque impara tutto quanto. Qualcuno mi fa cenno di no, secondo me sì, anche se ognuno ha il suo modo di usare il mixer e in effetti c'è qualcuno che lo distrugge perché è abituato a fare le serate, non si usa così in radio, ma è una cosa, vabbè, apro e chiuso, chiudiamo parentesi e riprendiamo il discorso. Allora, secondo me noi abbiamo tra l'altro una peculiarità, cioè che non c'è una divisione di ruoli rigida. Un po' il compagno parlava anche del fatto che ci si assumono tante responsabilità e che, riprendo un vecchio concetto che c'è ancora molto caro, non si dividono il lavoro pratico e manuale da quello intellettuale. E c'è la possibilità, e tra l'altro appunto non essendoci ruoli c'è la potenzialità, non dico proprio il dovere, ma almeno la possibilità di saper fare un po' di tutto. E in effetti molte volte a noi capita di trasmettere che siamo soli nella radio, non lo diciamo perché per ragioni di sicurezza non lo diciamo, però a volte noi siamo proprio, cioè, una persona nella radio che deve saper fare tutto. E quindi è anche una grande possibilità per chi trasmette, perché magari anche una persona che nella sua vita fa tutt'altro deve saper maneggiare almeno nel minimo delle conoscenze un mixer, deve essere in grado di fare le registrazioni, di editare, cioè di montare un audio, fare uno spot, eccetera eccetera. È una possibilità, nel senso che poi nei fatti non è vero che su 60 persone che trasmettono ci sono 60 persone che lo sanno fare, però noi questa cosa la diamo, cioè se tu lo vuoi imparare a fare questa, a far ripartire lo streaming, vuoi sapere, che ne so, come funziona il trasmettitore, cioè se tu lo vuoi sapere io te lo spiego, se vuoi sapere come si pubblica sul sito, eccetera eccetera, e questo dà tanta ricchezza, è molto stimolante. Quindi chi fa l'affiancamento solitamente sceglie dei turni. Se fa una trasmissione musicale, di solito con chi fa una trasmissione musicale, se fa uno spazio informativo con chi si occupa nell'informazione, e fa un tot di volte a seconda delle proprie necessità, imparando praticamente a fare tutto. Quindi a stare al microfono, a gestire i tempi radiofonici, a prendere le telefonate, a imparare a gestire i momenti di difficoltà, perché i momenti di difficoltà ci sono, anche perché noi abbiamo un numero di telefono che ripetiamo continuamente, e quindi chiunque può prendere telefonate e telefonare e voler dire delle cose. A volte sono dei contributi fantastici, a volte sono delle cose che seriamente ti possono lasciare un attimo spiazzato, e devi imparare a fare pure questo. Quindi questo è fondamentalmente, non ci si può immaginare che arrivi in radio e c'è lì il tecnico che ti fa la cosa, ti fa fare la prova, devi fare tutto da te, il che comporta le sue difficoltà, il che comporta anche il fatto che a volte, pur ascoltando Radio Onda Rossa, una radio di 33 anni, ogni tanto non si sente più, non ho preso la telefonata, c'è il rimbombo. Però a noi piace così, se questo prezzo altissimo che dobbiamo pagare per dare alle persone la capacità di essere autosufficienti e di imparare nuove cose, continuiamo a pagarlo perché ci fa piacere. Anche quello è vero, da quando abbiamo cominciato, ad esempio noi, negli anni 90-91, comincia Radio Topo, dopo il sequestro della Onda Verde per la polizia, abbiamo rifatto tutto il trasmissore da zero, tutto rifatto. E abbiamo, io mi ricordo le prime trasmissioni, assolutamente ubriaco, chiudere l'emissore venerdì. Noi siamo così, va bene. Poi impari che devi prendere cura di tutto quanto. Adesso, oggi per oggi, ogni programma deve avere almeno una persona responsabile che sa utilizzare tecnicamente il mixer. Quella persona fa un corso, impara e basta, impari il minimo. Dopodiché, di più persone che ci sono in ogni programma, di meglio che diventa, perché diventa più autonomo. Anche hanno la capacità di fare un aiuto a altri nuovi programmi e tutto quanto. Perciò che diventa interessante imparare, non è proprio difficile, è facile. Diventa interessante e anche diventa piacevole l'essere una persona autonoma, un ente autonomo, è quello che fa ogni programma. Almeno da noi, quello che ho visto dalla nostra radio, ad esempio a Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa ha una programmazione centrale in cui racconta delle cose con quelli che arrivano da fuori e poi ci sono i programmi. Noi funzioniamo invece all'inversa, ogni programma è autonomo, dappertutto, per la musica, i contenuti e anche la tecnica. Perciò che bisogna avere un lavoro più dal basso, tutti quanti devono essere autonomi. Anche diventa interessante perché non c'è un controllo, nessuno fa la decisione di quello che tu racconti sul tuo programma. Ovviamente ci sono i minimi. Ovviamente non ci sono militari, non c'è una omofobia, non ci sono i minimi che basta, quello non si discute. Alla fine questo è fare radio, no? Penso io, perché loro dicono che la radio professional che una persona ti porta tutta la tecnica e un'altra parla, però io penso che questo non è fare radio. Fare radio è che la fai tu, fai la tecnica e parla o puoi fare tutto, no? Penso io. Io penso che il nostro pensiero di come fare la radio, di che fare radio. Io volevo solo aggiungere una cosa: Blackout funziona come Onda Rossa sull'affiancamento, anche se sei capace già a usare un mixer, la cosa fondamentale nostra, l'affiancamento, serve per farti capire come porti nei confronti dell'ascoltatore. Quella è la cosa base proprio. Poi ovviamente anche se fai una trasmissione musicale, è difficile in una radio autogestita non avere purtroppo chi sa più cose specifiche su, per esempio, lo streaming, piuttosto che ripristinare qualsiasi cosa, nel senso che è vero che io mi affianco a una persona, quindi magari imparo a usare un mixer, imparo cosa dire in radio, mi costruisco la mia trasmissione. Noi c'è stato un periodo che preferivamo che chi venisse in redazione prima di proporre la trasmissione facesse affiancamento per capire che cos'è Blackout, quindi per capire i metodi, poi portasse su foglio scritto un progetto della propria trasmissione. È una cosa che è durata tipo un mese, una cosa di questo genere. Poi perché comunque abbiamo tentato di dare un senso, non sul palinsesto non abbiamo il, non so come, il direttore del palinsesto, cioè non c'è nessuno che dice questa trasmissione che fa hip hop la mettiamo prima di quella che fa hardcore oppure prima dell'informazione. Si tenta sempre di, tra virgolette, coprire i buchi, perché poi molte trasmissioni finiscono, altre persone scompaiono, hanno le loro cose da fare, per cui è normale che poi nella giornata hai dei momenti vuoti. Non per questo tutte le persone che arrivano e dicono voglio fare una trasmissione vengono comunque di base accettate, nel senso che magari con l'affiancamento capiscono anche loro che trasmissione vogliono fare. È una cosa abbastanza particolare. Purtroppo, appunto, questa cosa delle specializzazioni, a cui noi siamo sempre contrari e sempre lo saremo, però è normale che anch'io, che comunque da 10 anni seguo Blackout, se dovessi far ripartire lo streaming, non lo so fare, ma non perché non ho mai voluto imparare, perché comunque si arriva poi a un momento che poi è il momento a cui mi riferivo prima, cioè 60 persone presenti, 30 che seguono la redazione quasi stabilmente, in cui le altre 30 persone, quindi l'altra metà, dice ma sì, tanto c'è lui che ripristina lo streaming, per cui basta una telefonata e chi se ne frega. Tant'è che oggi noi facciamo questo workshop, a me la parola workshop proprio sta qua, no? Perché c'è stato un periodo in cui, visto che Blackout ha cambiato un po', diciamo, i protagonisti, nel senso che è arrivata tanta gente nuova, anche se magari nuova non era, comunque è arrivata tanta gente nuova a trasmettere, si è tentato di così insegnare alle persone come trasmettere, cioè da che cos'è un RCA, per fare un esempio, a che cos'è un wiki, tante cose, quali sono le fonti da prendere per l'informazione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, abbiamo finito con un nulla di fatto, nel senso che ma alla fine è proprio la voglia delle persone che partecipano a un'autogestione, quella di dire voglio seguirmi questa cosa qua, per cui come una sera voglio fare il bar per la radio e quindi non so spillare una birra, imparo, perché noi non abbiamo neanche persone che riescono a spillare birre, però vabbè, si vede che sono di Torino, sono un po' grigio, però un po' scuro, però vabbè, comunque è una cosa che poi capita, cioè che le persone si siedano, non si sentono protagonisti perché hanno le loro 2 ore di trasmissione, però si siedono, non sanno che per mandare il CD devi tirare sul fader, che... Capita molte volte che infatti tu stai ascoltando la radio, telefoni in radio e gli dici senti, ascolta, guarda che non si sente la tua voce, capita, ma è una cosa che pian piano tutti imparano, nel senso pian piano tutti imparano, essendo che comunque appunto non è radio DJ, per cui non hai una persona che ti alza le basi, che ti sceglie i pezzi, per cui sei tu in prima linea, insomma. Infatti, proprio a rafforzare quello che dicevi, noi abbiamo voluto puntare anche sull'home page, abbiamo scritto che nessuno di noi ha mai fatto radio e con la massima umiltà vogliamo cimentarci in un laboratorio sperimentale, poi sperimentando le cose impari e cresci, e la crescita poi diventa da individuale a collettiva. Dopo questo, altre 2 cose che mi premeva toccare. La prima è proprio la questione tecnica di una... Noi partiamo con un progetto di web radio, mentre le radio che trasmettono via etere in FM, come funzionano, quali sono i macchinari, quanto sono costati possibilmente, e possibilmente anche brevemente. Dopodiché, volevo chiudere sulla questione dell'informazione. Prettamente su come vengono trattati i GR e le notizie in generale, dalla durata dei tempi a se ognuno ci mette del suo o semplicemente si limita a raccontare la notizia. Ma allora, il costo di una radio in FM, bella domanda, nel senso che è difficile perché, come dicevo prima, su queste cose devi comunque basarti su un antennista che fa quel lavoro lì, nel senso su un tecnico che fa quel lavoro lì. Noi attualmente... O impari e lo fai te stesso, come facciamo noi. Radio Topo fa il supporto per Radio Bronca in Barcellona, Radio anche a Valencia, anche a Madrid. Ci sono 2 o 3 pazzi che fanno delle antenne, i trasmissori. Sì, però tutto. Penso che no, giusto, non per no, penso può, che sì, sia volendo no può no fare. Volendo puoi fare tutto, cioè volendo potete fare tutto, non è quello. Abbiamo problema, anche non è... cercato di fare trasmissione sì. Onda larga per arrivare a America, ma non avevamo i soldi per comprare un campo, capito? No, bisogna studiare, però no, fa una persona bisogna solo, rubare vabbè. I soldi, insomma. Sì. Abbiamo per farla breve sulla strumentazione, noi avevamo quando abbiamo fatto il trasloco 4 anni fa, abbiamo cambiato ovviamente i macchinari, abbiamo speso super giù un 30.000 euro tra trasmettitore e 2 antenne che non sono potentissime, nel senso che tecnicamente funziona che tu hai un trasmettitore in loco, cioè nella sede della radio, il quale passa il segnale all'antenna posizionata, cioè noi abbiamo dovuto, la nostra sede è una casetta di 2 piani. Saranno siano 6 metri, perché poi dipende anche dove sei, in che posizione sei e come sei messo verso la noi abbiamo una collina di Torino dove ci sono tutti i ripetitori di tutte le radio. Quindi, in base a dove sei posizionato e quindi a che livello di altezza sei dal suolo, dai palazzi che hai intorno e tutto quanto, tu ti devi attrezzare su poter mandare il segnale da lì verso la collina. In poche parole, il segnale parte dal tuo trasmettitore, va su, c'è un'altra antenna che manda il segnale in collina alla diciamo, chiamiamola parabola, che poi la diffonde a tutta nell'etere. Questo è in poche parole, perché io non sono un tecnico, però in poche parole è questo il meccanismo, cioè il segnale gira così, insomma. Sì, 30.000 euro più o meno tra antenne, cose di questo. È anche, sottolineo, apro di nuovo una parentesi sullo sfratto. Sfrattare una radio vuol dire anche questo, nel senso che tu devi prendere armi, bagagli che non sono solo i lettori CD e il mixer, ma sono anche, per dire, noi abbiamo dovuto installare un traliccio sopra il tetto di almeno 8 metri. Perché comunque noi, essendo questa casa bassa in mezzo ai palazzi, il segnale deve arrivare in collina, se no non trasmetti. E qua chiudo la parentesi tecnica. Sulla parentesi dell'informazione, l'informazione di blackout è soprattutto al mattino. Avevamo provato a fare anche una fascia serale che riprendesse un po' le tematiche del GR. Il GR va in onda dalle 12.30 alle 13 più o meno, perché poi ci sono quelli che sforano, è normale anche sforare. Da 3 anni/4 a questa parte, nel mattino abbiamo deciso di mantenere le trasmissioni comunque quelle informative. Per farvi un esempio, c'è una trasmissione al mattino che si chiama Bello come un carcere che brucia, che ovviamente parla del carcere, insomma. E l'informazione parte alle 9 con una rassegna stampa che dura un'ora, in cui vengono lette le prime pagine dei giornali nazionali. Più o meno si prendono quasi tutti i giornali, a parte il giornale. È un peccato per me non prendere il Corriere della Sera, perché alcune cose del Corriere della Sera, secondo me, degli approfondimenti sono abbastanza importanti. La rassegna stampa non viene fatta non sono io che leggo la notizia e la critico subito. Semmai come la rassegna stampa che si vede in televisione, col tipo che ti fa, con l'evidenziatore, ti evidenzia le prime pagine dei giornali. Ovvio che è difficile da questo punto di vista tenere un'obiettività, nel senso che una rassegna stampa di una radio di movimento, se devi parlare degli arresti, ti prudono un po' le mani, è difficile. E quello deve essere la vera forza comunque di una rassegna stampa, cioè tu devi mantenere la tua obiettività. Ovvio che poi sta a te leggere degli stralci anche degli articoli per far capire il controsenso di quella notizia. Questo è dalle 9 alle 10, dalle 12.30 all'una c'è il radiogiornale vero e proprio, che viene preparato durante la mattinata. Di solito sono in due redattori che fanno la rassegna stampa, che di solito sono i due redattori che fanno il radiogiornale vero e proprio. E in quel lasso di tempo che c'è dalle 10 alle 12.30 si prepara il radiogiornale. Il radiogiornale viene impostato come un telegiornale vero e proprio, nel senso che si parte dalla pagina internazionale, ovviamente si dà più risalto per dire la Palestina piuttosto che le varie guerre in giro per il mondo, e poi pian piano si va sul nazionale, sul locale, e si conclude il radiogiornale. Il radiogiornale si avvale di interventi, quindi stanno sgomberando il laboratorio Z. Io la tengo come penultima notizia, perché in questo caso è nazionale, perché io sono di Torino, è nazionale, per cui io sento Christian, registro la telefonata con Christian, E la mando in diretta e quindi faccio parlare lui come partecipe dello sgombero del laboratorio Z. Durante il pomeriggio non ci sono trasmissioni di informazione specifiche, nel senso che l'essere DJ in una radio di movimento, anche se tu metti la musica, vuol dire appunto, come diceva Tiziana prima, vuol dire che se ti telefona qualcuno, vuol dire che tu sai gestire la situazione. Per cui è fondamentale comunque informarsi, in ogni caso, di quello che ti succede attorno. Perché è fondamentale partecipare alle redazioni, oltre che a sapere che cosa succede nella tua radio? È anche fondamentale partecipare alle redazioni perché io becco lui che fa parte del movimento per la casa che mi dice: guarda che giovedì ci sarà lo sgombero di una casa e noi ci opporremo allo sgombero, no? Allora tu sai che anche se non sei in onda o se in quel momento sei in onda, se lui ti telefona, tu lo sai già. E non dico che ti sei preparato plichi e plichi di informazioni, ti sei andato a cercare, però sai gestire la cosa. Questo è fondamentale, anche se tu fai una trasmissione in cui in 2 ore metti gli amici che suonano e cose di questo genere, è fondamentale saper gestire la cosa. Quindi si può riassumere questa cosa qua che anche se l'informazione vera e propria si spalma nel mattino, tu il blackout è sempre a disposizione di quello che succede, ma lo si è visto anche col NOTAV, il NOTAV per dire le cariche che sono avvenute non avvengono alle 10 del mattino, avvengono a mezzanotte. E a mezzanotte ovviamente non ci può essere uno spazio informativo, ci sarà una trasmissione puramente ludica, diciamo. E quindi quella trasmissione lì, anche se in quel momento sono tutti sballati, ubriachi, cose di questo genere, perché poi è così, in quel momento deve ripigliarsi un attimo e comunque saper gestire la diretta della persona che sta chiamando e che sta dicendo: qua siamo in Valsusa, stanno caricando, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, e anche in questo caso ci sono molte analogie, per cui io più che ripetermi cercherò di fare delle aggiunte, anche se forse per quanto riguarda l'informazione dirò qualcosina in più. E, quindi sul tema del trasmettitore no, c'è molto poco da aggiungere, volevo solamente fare l'esempio di Radiolina che ha avuto la fortuna comunque di trovare un trasmettitore che non veniva usato, che era stato pensato per un vecchio progetto di radio che non era mai partito e con un trasmettitore abbastanza potente è riuscita a sfruttare un cono d'ombra e quindi a riuscire a trasmettere su quel cono d'ombra che comunque quando è nata riusciva a fare da Gianturco a Fuorigrotta, quindi a coprire comunque una bella fetta della città di Napoli. Negli altri casi, appunto, le difficoltà sono state già spiegate, sono soprattutto di tipo economico, però anche poi di concessione, eccetera, eccetera. Ci sono sparsi per l'Italia anche dei piccoli progetti di radio pirata con trasmettitori autocostruiti, però appunto questo crea delle. Io ho portato anche dei piccoli materiali che lascerò, appunto, se qualcuno si vuole cimentare in un'avventura del genere. Sono cose che sono state fatte alcuni anni fa, per esempio, dal laboratorio di elettronica popolare di Milano, piuttosto che anche dai campani. E sono delle cose che comunque hanno dei limiti, vuoi per le difficoltà, il tempo che ci metti, vuoi anche perché non riuscirai comunque ad avere un trasmettitore di una potenza tale da poter andare chissà che dove. Però magari io credo che così, piuttosto che creando dei punti d'ascolto e quindi l'amplificazione, il mini trasmettitore, uno lo metto a Ballarò, uno lo metto a Vucciria, uno metto man mano, magari con una formula del genere si può man mano andare nell'etere, perché comunque il limite dello streaming c'è, non c'è niente da fare. Poi un giorno noi ci scontreremo con l'esistenza del digitale, per quello che credo io, però per il momento abbiamo il vantaggio che l'etere è limitato, per cui è abbastanza facile che qualcuno possa incappare nella nostra frequenza e siamo molto contenti e contenti di questo. Per quanto riguarda l'informazione, Noi cominciamo un po' come blackout con la rassegna stampa, variando appunto i giornali, e aprendo rapidamente con le prime pagine e poi andando sui giornali. La rassegna stampa però sì, la facciamo in maniera critica. Io prima, mentre facevamo un'intervista con il compagno di Valencia, spiegavo che preferisco parlare di informazione dal basso. Poi la controinformazione può in parte rientrare nell'informazione dal basso, ma è solo una parte appunto. Poi c'è anche quella che è semplicemente indipendente, tu non stai rispondendo a qualcosa, ma è proprio quella che parte da te. Ovviamente la rassegna stampa è controinformazione e invece noi sì, lo facciamo in maniera molto critica, cioè ci sembra anche abbastanza limitato. Io personalmente, quando non ho nulla da dire su un articolo, mi sento proprio in fortissimo imbarazzo, perché al contrario sì, voglio dire io che cosa ne penso, e spesso si fa anche il gioco di cercare di vedere come la differente notizia viene trattata dai differenti giornali, ovviamente. Poi noi abbiamo, durante la mattinata, diamo molto spazio all'informazione, lo facciamo attraverso i cosiddetti spazi redazionali, cioè sono quelli cui si riferiva prima il compagno, lo ha detto in una maniera che forse poteva essere capita male, quelli, cioè, per le persone di fuori, nel senso che abbiamo delle trasmissioni che sono fisse di informazione, che sono le trasmissioni tematiche, abbiamo la trasmissione sulla Palestina, piuttosto che la trasmissione sui CIE, e poi che si fanno di solito nel pomeriggio, poche la mattina, ma questo tipo di trasmissioni informative sono fatte nel pomeriggio e di solito sono condotte dalle stesse persone, però sono aperte, per cui se uno una singola volta vuole andare a trasmettere con loro perché ha qualcosa da dire sul tema, prende e va. E gli spazi redazionali sono degli approfondimenti tendenzialmente, a volte si riesce a fare una cosa ben costruita, per cui si fa con una scaletta, inserisci l'intervista, ma parli anche te, dai link. A volte riusciamo invece a invitare qualcuno da fuori, che sia dalla città, ma piuttosto anche persone dall'estero. 2 settimane fa abbiamo avuto una madre de Plaza de Mayo che passava casualmente, non troppo casualmente, per Roma, e abbiamo potuto intervistarla. Oppure c'è una formula più breve, che è quella di fare le corrispondenze, cioè quelle a cui faceva riferimento Fabrizio. Per quanto riguarda il GR, cioè riuscire a chiamare comunque da un picchetto antisfratto, da un'altra cosa, e parlare in un tempo al quale non diamo dei limiti. Poi sulla radiofonicità spesso ce ne freghiamo anche abbastanza, forse troppo, però comunque non diamo dei limiti e parliamo di questa tematica. Questi sono gli spazi redazionali. Alcune trasmissioni tematiche, di cui poche di intrattenimento, sono la mattina, per esempio quella specifica di Osservatorio Antifascista si fa il martedì mattina e si chiama Maldestra, e va avanti da alcuni anni ormai, e poi c'è il GR. In realtà la scaletta del GR dipende un po' anche da chi la fa. Diciamo che per noi la cosa più importante è dare lo più spazio possibile alle notizie di fonte diretta. Forse anche per questo le nostre bollette sono un po' altine, non perché telefoniamo in Giamaica, come è anche successo, ma poi abbiamo messo il blocco. E il reggae piace molto a Roma, come sapete bene, ma perché appunto vogliamo che siano le persone a raccontarsi, e quindi diamo notizia soprattutto a quello. Mentre durante la corrispondenza di spazio informativo non ci diamo limiti di tempo, per una questione di ascoltabilità, perché poi girare la manopola è facile e quindi una persona si può anche ammorbare, diciamocela tutta, e di solito ci diamo anche proprio dei limiti di tempo su una corrispondenza. C'è una corrispondenza quando è arrivata a 4-5 minuti, è lunghissima, è proprio lunga. Quindi anche chi è dall'altra parte si deve anche un po' abituare a sapersi giocare bene i contenuti e dirli in maniera stretta stretta, soprattutto all'inizio. Però spesso sono corrispondenze che riusciamo anche a editare prima, quindi a tagliare le parti più importanti. A volte no, a volte abbiamo il mixer della saletta di registrazione che è rotto e noi le corrispondenze le dobbiamo fare solo in diretta, non c'è altra soluzione. Ci è capitato quest'inverno per 3 mesi perché continuava a non funzionare questo mixer. Quindi queste appunto sono le informazioni a cui diamo priorità. Al 95% dei casi sono notizie che arrivano ovviamente dall'Italia, qualche volta addirittura riusciamo a sentire persone che siano fuori dall'Italia. E per fortuna, per esempio, per quanto riguarda la Grecia, noi abbiamo comunque un paio di compagni che parlano l'italiano e che sono lì, e abbiamo cercato il più possibile di far parlare direttamente loro. Secondariamente diamo, o meglio, insieme a questo, non solo le corrispondenze nostre, e sotto questo punto di vista è molto importante il lavoro di rete e riuscire a pubblicare online quante più cose possibili, perché riusciamo a scambiarci le cose fra di noi, fra radio. Oh, che va bene, posso aggiungere una cosa in più? Invece di rifarla io da capo la corrispondenza, oh, l'ha fatta Banda Radio mezz'ora fa, la scarico e la mando in onda, qual è il problema? Anzi, riesco, voi non lo fate, noi lo facciamo. E questo tra l'altro è anche un modo per dare un riconoscimento ad una nostra radio sorella, perché poi lo diciamo esplicitamente che la corrispondenza non è nostra, ma è stata presa dall'altra radio. Poi scegliamo una serie di agenzie indipendenti, di cui abbiamo un elenco, insomma, che avevo già passato alle compagne e ai compagni di Banda Radio, perché comunque ci possono essere delle differenze, ma ci fidiamo un po' di più. E poi e l'ultima cosa che andiamo a guardare è l'informazione, diciamo, delle agenzie, quelle mainstream. Ovvio è che cerchiamo di stare molto attenti anche al linguaggio, perché la stessa notizia la puoi scrivere in un modo o nell'altro, quindi molto spesso anche gli stessi testi noi li rimaneggiamo. Vuoi nel linguaggio, vuoi perché noi sappiamo una cosa in più su quel tema, vuoi perché spesso c'è questa superficialità per cui i contesti vengono dimenticati, no? Quindi tu dai per scontato che chi legge sa, ma magari chi legge non lo sa, cioè non lo sa perché oggi è scoppiata la bomba in un posto. Tu magari te lo ricordi o non lo sai, ma ti viene la pulce nell'orecchio e dici ok, me lo vado a cercare, e cerchi un po' di ricostruire la notizia. E, aveva ragione Fabrizio quando diceva che era importantissimo stare in redazione, informarsi fra di noi, non sto a ripetermi quindi sulla cosa. Qualche volta può essere d'aiuto sotto questo punto di vista anche una mailing list, il che non vuol dire bombardare una mailing list con qualsiasi cosa succede, l'ultimo amico tuo che si è scaccolato, però insomma le cose più importanti magari è opportuno segnalarlo, magari usando dei link invece che le notizie intere, giusto per non inquinare ulteriormente dal punto di vista informatico. Abbiamo anche una cosa che è particolare, che forse abbiamo solo noi, che è lo spazio comunicazioni, cioè che è un piccolo momento che facciamo dopo il GR nel quale segnaliamo non solamente le iniziative che ci sono in giro, ma anche dei comunicati, se c'è una chiamata a una manifestazione, ed è un po' diverso dallo spazio della notizia, diciamo, include un po' tutto questo, include, che ne so, un piccolo comunicato di un collettivo, piuttosto che c'è un concerto, piuttosto che si fa un appello per un'assemblea, ecco. E delle trasmissioni tematiche non parlerò a lungo, perché comunque vi ho dato cenno di un paio che sono abbastanza importanti, che sono abbastanza indipendenti al suo interno, al loro interno. E poi la sera abbiamo nuovamente un GR, quindi nel pomeriggio abbiamo o trasmissioni musicali o trasmissioni tematiche, e la sera abbiamo nuovamente un GR che di solito è una versione arricchita di quello precedente. Sotto questo punto di vista ancora una volta diventa molto importante il lavoro di squadra, fra virgolette, cioè chiunque faccia il GR dell'ora di pranzo ha il compito di segnalare bene di che cosa ha parlato, cosa rimane da fare, se c'è una cosa importante il pomeriggio per cui è bene che le compagne o i compagni che fanno il GR successivo chiamino, magari dai il numero di riferimento, oppure dice ho fatto questa corrispondenza, è ancora buona per la sera, per favore rimandala. E sotto questo punto di vista ci aiutiamo ovviamente attraverso le mail, ci aiutiamo anche attraverso la nostra agenda. Noi abbiamo una rubrica, noi confondiamo spesso fare rubrica e agenda, una rubrica con un sacco di numeri di telefono che preserviamo, perché vedi, sono per telefono di tante persone, quindi non devono finire nelle mani sbagliate, però abbiamo tanti numeri, insomma, per persone che sono dei, diciamo, dei nostri referenti. E poi anche degli altri strumenti condivisi, lui faceva cenno al wiki, che è un softwareino, una cosina semplicissima che ti consente di avere una scrittura collettiva. Wikipedia si basa su quello, per quello che si chiama Wikipedia fondamentalmente, e quindi chiunque può andare a recuperare il GR precedente, poi rimaneggiarlo, scrivere altre cose. Questo perché, e con questo concludo, credo che sia importante anche dare una continuità alla notizia, quindi il ciclo della notizia. Oggi ho parlato di questo, sì, ma come è andata a finire? no? Perché è successo, tipo come è successo martedì mattina, abbiamo sentito dallo Zen un compagno, sapevamo che le persone erano sopra i tetti, giustamente chi ascolta la radio, se durante il GR poi alle 7 di sera non sa se quelli erano ancora sui tetti, se gli hanno menato, che cioè, sta un po' basito. Per cui ancora una volta qui rientra la questione della continuità, della discussione collettiva, della condivisione degli strumenti e della responsabilizzazione. Io per concludere, se poi ci vogliono essere interventi e vuole continuare il dibattito, c'erano altre, le ultime due cose che volevo chiedere. Più che domande sono considerazioni che volevo chiedere ai vari rappresentanti delle radio. La prima riguarda l'approccio musicale, come viene trattato la musica. In questo mi sarebbe piaciuto vedere qualcuno di Radio Ballarò che magari si è allontanato. E comunque gli faccio tra virgolette pubblicità io, la domenica Radio Ballarò, che è una radio locale web, si occupa di diffondere tutta la musica che non è assolutamente tutelata dalla multinazionale mafiosa SIAE e che viene tutelata da Creative Commons per il libero diritto d'autore, senza tasse imposte, cosa che tra l'altro la SIAE funziona così soltanto in Italia e c'ha degli interessi mostruosi. Un'altra cosa, una considerazione finale che volevo chiedere proprio: come stanno oggi le radio? Si sta creando un bellissimo movimento di radio web, ci sono delle radio che resistono dagli anni anche dal punto di vista tra virgolette degli ascolti, perché negli anni 70-80 era nato come un boom, subito dopo ci fu il boom dei centri sociali, ci sono grosse sacche di resistenza ancora, ma fra di loro come sono messe in connessione, che rapporti ci sono? E con questo si evince anche perché abbiamo invitato determinate radio piuttosto che altre. Ma la musica di Blackout, prima di tutto Blackout non paga la SIAE. Ci avevano provato, cioè, avevano mandato una lettera un po' particolare un po' di tempo fa, una specie di sondaggio. Loro volevano fare un sondaggio, ma noi sinceramente ce ne siamo abbastanza fregati di questa cosa. Su questo non implica il fatto che comunque se io faccio una trasmissione ovviamente di un certo tipo, per dire, una trasmissione che parla di punk hardcore, il punk hardcore è il do it yourself, è normale magari che mando delle cose soprattutto italiane che non sono registrate sia e che sono autoprodotte, cose di questo genere, a differenza magari di qualcuno che fa una trasmissione di un altro genere, per cui se deve mandare un pezzo di musica latina o un pezzo di musica hip hop, ma anche il punk comunque, se vai a ben vedere soprattutto quello internazionale, comunque bene o male mandi delle cose che escono per delle major, cioè alla fine è così. Non ci sono prettamente programmi che parlano di Creative Commons piuttosto che di no copyright e cose di questo genere. Sta a te ovviamente presentare la cosa che stai mettendo in un determinato contesto. La musica che viene diffusa da Blackout è varia, non c'è una linea specifica, appunto, si basa sul fatto che io propongo un progetto e quindi io sono padrone di questo progetto, quindi padrone di quello che voglio mandare. L'altra domanda mi ero... Come stanno le radio? Ma noi stiamo bene... No, nel senso che, per carità, questo perché vedi nella presa male di prima, alla fine noi siamo contenti. Poi alla fine, come stanno le radio in Italia? Ma io diciamo che nella situazione particolare di Blackout, quindi lo sfratto e quindi la campagna che abbiamo aperto, che si chiama, prima non l'ho detto, si chiama Spegni la censura, accendi Blackout. Ha fatto in modo che, a parte essere più ascoltati, e questo non possiamo capirlo attraverso dei dati, quindi non c'è l'Auditel perché non siamo la RAI, e forse non ci interessa neanche, insomma, però a parte appunto il territorio che come si Come si percepisce che una radio è ascoltata nel territorio? Se partecipando alle serate, ad esempio, Benefit Radio, partecipando a qualche presidio piuttosto che manifestazione, si conoscono le persone ti dicono: ah, ti ho ascoltato. Questo è una cosa che comunque implica anche un miglioramento della qualità anche della propria trasmissione, tra l'altro. Con questa cosa dello sfratto, quindi di questa campagna contro la censura, abbiamo rafforzato i rapporti con Radio Onda Rossa, ovviamente, ma con altre tante radio, una è Radio Cane che trasmette da Milano, se non erro, solo sul web, ma con tantissime altre radio anche specifiche, tematiche. Ci sono delle radio legate al... da quanto ne ho capito, legate al movimento dancehall italiano, che comunque ha dato il loro sostegno a Blackout. E io non, sinceramente, a parte questi casi particolari, a parte appunto le radio come Radio Onda Rossa, sinceramente non lo so come stanno le altre radio in Italia. Potrei parlare dello stato di salute della musica indipendente in generale, perché poi questa cosa però sarebbe troppo lungo, già qua vedo che scattano i lacci emostatici. E quindi niente, sinceramente a parte il progetto Radio Gap, che poi è andato come è andato, è una cosa molto allo sbando, nel senso che, ma non perché uno non voglia creare un'unità, un rapporto e tutto quanto, perché delle volte sei talmente preso da pensare alle tue cose, cioè a come comunque mandare avanti la radio, fare, che delle volte non ti viene spontaneo, tant'è che quando ci siamo sentiti io e lei per questo incontro circa un mese fa, noi come radio avevamo fatto uscire un nuovo comunicato sullo sfratto, e se io non sentivo lei per questo incontro, cioè loro non lo sapevano, insomma, che c'era questo... perché ti viene un po' difficile, a parte appunto i rapporti quelli storici, ti viene un po' difficile dire: bah, mi metto sulla rete e cerco delle radio simili alle mie, e magari sono sul web e inizio a raccogliere i loro contatti email e dirgli: noi siamo Blackout, esistiamo da 8 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui non, sinceramente sarebbe... un buon materiale di discussione sarebbe in un'assemblea aperta, magari in una due giorni di radio libere, si potrebbe buttare lì, se qualcuno, perché no, cioè, nel senso che sarebbe una cosa molto bella capire effettivamente quante persone all'interno delle radio sono comunque interessate ad aprirsi verso altre radio che non sono sempre le solite, che non sono Onda Rossa. Io mi ricordo anche Onda D'Urto, anche se comunque abbiamo delle differenze, cioè abbiamo delle grandi differenze, e si stringo adesso. sì, le differenze sono tante. Insomma, secondo me è un po' difficile, perché appunto con lo streaming poi, tra l'altro, si perde molto la percezione della cosa. Lo streaming è anche un po' diciamo l'etere locale, perché Blackout comunque copre solo Torino e arriva fino alla seconda cintura di Torino, più o meno. Ad esempio, per raccontare cosa succede in Valsusa e far sentire la radio in Valsusa, non abbiamo fatto nessun ponte a livello di etere, ma abbiamo utilizzato lo streaming, perché Blackout arriva fino nella bassa Valsusa, che non è la zona tra virgolette calda, ma non arriva nei presidi del movimento NoTav, per cui anche in Valsusa abbiamo utilizzato diversi accrocchi per farci sentire, per cui è difficile comunque, essendo delle radio di movimento localizzate nell'etere, nel territorio, è difficile che se io non vado a Napoli e non conosco che c'è Radiolina, con cui Blackout ha collaborato, perché Radiolina forniva spazi per lo streaming di Blackout, se io non so che a Napoli c'è Radiolina, arrivo a Napoli e boh, ascolto l'MP3, cioè ascolto la musica che mi piace, cioè quello è il discorso. E sarebbe bello poter magari riunire le varie esperienze, insomma. Ok, io riprendo un po', anche questa volta riparto dalla coda, per cui no, innanzitutto riprendo l'idea di poter fare un momento in cui ci rivediamo e ci rincontriamo, pur sottolineando che, questo è il mio personalissimo punto di vista, che non è nemmeno condiviso da tutta la radio, però appunto anche quando c'è stata Gap ci sono state con altre radio delle differenze che sono venute fuori e che comunque hanno fatto capire fino a che punto tu puoi collaborare. E alcuni anni fa, quando era nata Radiolina, tra l'altro si era fatto un tentativo di rimettere, di riconfrontarsi fra radio, eccetera, eccetera, perfino con il progetto Radio Autistici, che era una cosa che in quel momento andava abbastanza bene, quindi a parte del collettivo Autistici Inventati, quantomeno di fornire degli strumenti per fare della radio nel web. Però io credo sì che sarebbe veramente interessante, ripeto ancora una volta, farlo con i campani, che hanno diverse radio, un arcipelago di radio nella regione, piuttosto che con Radio Cane, che devo dire che fa un ottimo lavoro, che non è quotidiano però è decisamente buono, e quindi insomma sì, perché no, pensiamoci. E come stanno le radio? Io credo che negli ultimi anni ovviamente anche il movimento sia molto cambiato e quindi sono cambiati anche molto i rapporti con i mezzi di comunicazione. Forse la parte più brutta che è stata quella in cui i movimenti ricercavano e come altri mezzi di comunicazione sta finendo, però c'è stata. Cioè c'è stato un momento in cui, vabbè, che abbiamo fatto questo picchetto, allora dobbiamo sentire Repubblica, dobbiamo sentire Radio non so che, e poi chiamiamo anche Radio Onda Rossa. Ah, ok. Adesso piano piano, visto anche poi il modo in cui noi trattiamo la notizia, anzi quasi quasi non la trattiamo ma te la lasciamo fare, in questo momento secondo me si sta ritornando a un riconoscimento un po' più forte di quelle che sono le radio come la nostra. Però direi delle bugie se vi raccontassi che c'è sempre stata questa linearità, onestamente. E specie nella città di Roma, per quanto riguarda la mia esperienza, poi se Fabrizio c'è qualcosa da aggiungere gli ripasso il microfono. E i rapporti fra di noi, sì, ci vogliamo tanto bene, quindi figuriamoci, non è che ci sosteniamo moltissimo, e ribadisco la necessità proprio di mettere il più possibile a disposizione i propri materiali per poterli scambiare, specie con le radio più giovani, non per infilare e rubare spazi, ma al contrario, perché magari è decisamente meglio che io possa mandare una trasmissione di banda radio piuttosto che banda radio rimandi la mia, invece di mandare 10 ore di automatico o di bobina, come la chiamano a Torino, che fondamentalmente è questo programmino con tutte le trasmissioni registrate che a un certo punto non ce la fai più, insomma. E quindi insomma, io credo che tra l'altro quello che ci abbia molto unito è anche il fatto che ci siano delle tematiche, ne cito una solamente, che comunque ci hanno unito dal punto di vista dell'agire politico e quindi di conseguenza dal punto di vista della comunicazione, del coordinarsi. Io ho mai sentito così qua, per esempio, i CIE. Macerie nello specifico, ma un po' tutta Radio Blackout ha fatto un lavoro pazzesco, che poi a un certo punto noi ci siamo svegliate, ho detto, ah cavolo, però guarda che stanno facendo, ma non dovremmo farlo pure noi, visto che abbiamo un cavolo di CIE a Ponte Galeria? Cioè, e loro ci hanno dato il là, e poi partendo da lì poi ci sono state anche tutte le relazioni, per cui capita che una volta è perché hanno telefonato a Radio Onda Rossa quando hanno picchiato all'interno del CIE uno che si era appena mangiato 4 accendini e pretendeva di essere visitato da un medico, ci sentono da Torino, si riprende prende la cosa, oppure anche per far comunicare fra di loro, perché molto spesso Onda Rossa raccoglie le notizie di Ponte Galeria, non so, Torino raccoglie altre notizie da Corso Brunelleschi, e poi diciamo, oh, ma lo sai che a Corso Brunelleschi sta succedendo questo, piuttosto che a Corelli sta succedendo quest'altro? Se non ci fossimo noi, questa cosa non so fino a che punto funzionerebbe. Quindi secondo me questo è molto importante, cioè anche il fatto che il coordinarsi fra radio va al di là dello scambiarsi il materiale così, o del volersi bene perché più o meno facciamo le cose allo stesso modo. E per quanto riguarda la musica, io credo che negli ultimi anni un pochino siamo cresciuti. Al di là del fatto di banfarcela perché all'interno di Radio Onda Rossa è nata l'Onda Rossa Post, eccetera, eccetera, sono passati un po' di anni, quindi smettiamola di banfarcela su questa cosa, per quanto sia stata bella, perché poi appunto ne è passata di acqua sotto i ponti. E secondo me, fino ad alcuni anni fa c'era molta poca attenzione alla musica in Radio Onda Rossa. Da molti compagni veniva considerata come una roba che tu devi mettere fra una pausa del parlato e l'altra. È stato un po' difficile, però ci stiamo riuscendo e ogni anno meglio invece a capire che la musica fa parte e come della comunicazione. E anche sotto questo punto di vista, diciamo che poi si trasmette un po' di tutto. Cioè, se c'è una cosa che secondo che musicalmente vale, io posso mandare anche una cosa di una major, ovviamente scaricatissima, ovviamente, capito, che non me ne frega niente di sia, eccetera, eccetera, però la trasmetto. Insomma, anche non avere troppo dei limiti così. Ovvio è anche che però do più importanza alla musica indipendente e ancora più importanza ovviamente alla musica autoprodotta. E segnaliamo spesso anche dei siti, vari siti che noi possiamo conoscere, che possa essere Jamendo piuttosto che degli altri, da dove c'è musica scaricabile liberamente. Fino a poco tempo fa avevamo anche una trasmissione che si occupava specificamente solo di cose che erano sotto CC, che si chiamava Radio Copy Down, però anche all'interno delle altre trasmissioni tendiamo il più possibile a dare spazio, così come all'interno delle nostre distribuzioni, che sono, per esempio, dal punto di vista musicale, questa distribuzione è molto più piccola di quello che magari riesce a fare Blackout, però piano piano stiamo riuscendo a prendere comunque alcuni dischi che siano di gruppi locali che noi comunque sosteniamo. Poi anche in primis, per esempio, cito i Rancore, che tra l'altro hanno dedicato una canzone bellissima al nostro compagno Antonio di Agrobax, che è morto di lavoro alcuni anni fa. Insomma, cerchiamo comunque di sostenerli, di farli conoscere, come è successo anche per il progetto Resisto 2, piuttosto che per la gente Strana Posse. No, sopra questa cosa che hai detto di la musica, penso che uguale, la cosa più importante è sempre la musica anticommerciale e l'autoprodotta e soprattutto la musica locale. Però noi mettiamo anche musica commerciale perché non vogliamo diventare nessun tipo di elitismo, nessuna cosa così. Però la sanzione di permettere questa musica è peggio che quando ci vogliono fermare. E questo sì è pericoloso, però siamo così che non sappiamo. E per come siamo la radio libera in Spagna, io penso che adesso un momento più forte. Io penso che è un momento più forte perché vogliono fermare tutta la radio libera. Già hanno fermato due radio libera in Galizia, si hanno fatto due trovate in Barcellona e adesso in Malaga. E si è fatto una web dove ogni radio lascia qualche informazione al giorno e questa web è come un programma che automaticamente la mette nella tua radio, se tu sei in questa web e si ascolta direttamente, cioè come una cosa che la facciamo da tutta la radio libera. E stiamo preparando una manifestazione, azione diretta in Madrid, però già per dopo di l'estate. E abbiamo fatto anche una commissione giuridica di avvocato per fermare questa cosa. E siamo più forti soprattutto nella Unione, che è la prima volta che si è fatta una unione di tutta la radio libera, no? Una cosa così. E in Valencia anche. Non so se... Sì, una cosa così. Vamo, io penso che è la prima volta che la gente di la radio libera si une. È per questa cosa che vogliono fermare. Però no, non posso dire niente. Bene, con questo noi salutiamo, ringraziamo Radio Topo, Radio Malva, Radio Onda Rossa, Radio Blackout, il Laboratorio Z che ci ha dato la possibilità di fare questo dibattito. Vi ricordo che gli estratti di questa discussione li troverete sul sito di Banda Radio, che da stasera potrete ascoltare anche la diretta di questa 2 giorni contro il fascismo su www.bandaradio.info. Da ieri è attivo il nostro sito e vi invitiamo ogni martedì alle 21 alla nostro momento assembleare che si tiene al magazzino Centro Culturale Manassar a Piazzetta dell'Origione. Un buon ascolto di Radio Libere autogestite a tutte, un'ottima resistenza a tutti e a tutte.